Entrate in contatto con il secondo appuntamento della settimana di Hard and Heavy. Il benvenuto e ben ritrovati insieme su Rock FM dalla voce di Marco Gravelli. Secondo spazio serale della settimana, replicato poi il giovedì. Ricordiamo quindi che Hard and Heavy in onda dal lunedì al venerdì. Il nostro sponsor è Mariposa Dischi, corso Lodi numero 1 qua a Milano. Sito www.mariposadischi.it. Come sempre un grazie a Simone, l'autore di tutti i miei testi, che mi permette di partire con questa band americana che risale al 1979. Se non lo sapete, la prima parte di Hard and Heavy, perlomeno la prima mezz'ora, è abbastanza incentrata su quelli che sono stati alcuni classici, alcune chicche, altre band magari meno note e conosciute degli anni fine 70, 80 e 90 del mondo dell'hard rock e del metal e di tutte le loro sottoderivazioni. Questa band americana si chiama EXI, nasce nel 79 con l'ingresso di un secondo chitarrista. Decidono di cambiare il nome da Babyface, con il quale avevano pubblicato un album nel 77, in X. Lascia in pratica leader del gruppo e cantante chitarrista Bobby Barth. Il loro omonimo album risale al 1979 ed ottenne subito l'interesse della critica. Da segnalare il loro terzo album, Offering, siamo nel 1982, che li portò intorno all'80esima posizione nelle charts americane, oltre che ad un tour di spalla ai Judas Priest, Scorpions, Ozzy Osbourne e Iron Maiden. Dopo il quarto album, Nemesis, c'è da segnalare un brutto incidente stradale nel quale il secondo chitarrista perde la vita e miracolosamente il leader Bobby riesce a salvarsi. La band quindi decide di sciogliersi, ma si riformerà nella seconda parte degli anni 90 con Bob Harris alla voce, per tornare sul mercato nel 1997 con il quinto album, semplicemente dal titolo Five, seguito nel 2000 da The Crown, che oggi è anche il loro ultimo album in studio. Dal loro album Offering andiamo ad ascoltare un loro classico, si intitola Rock and Roll Party in the Streets, brano che inizia con il pianoforte e che apriva proprio quel lavoro. Direttamente dal vinile, quindi con un leggero fruscio, ascoltiamo le note di Rock and Roll Party in the Streets in apertura di Hard and Heavy. Sono gli EXI. I'm sure you Abbiamo iniziato con gli Exi dall'album Offering, ascoltando le note di Rock and Roll Party in the Street, e continuiamo con i Racer X. Andiamo più verso il metal con questa band americana creata dal chitarrista Paul Gilbert, noto per essere stato chitarrista di Mr. Big, insieme al bassista John Alderate. Il gruppo nasce nell'85. Un anno dopo, nell'86, esce il primo album Street Ladle. In occasione del secondo album Second Hit dell'89, entra il batterista Scott Travis, che poi militerà anche nei Judas Priest. A causa della fuoriuscita di Gilbert dai Racer X per entrare nei Mr. Big, il suo posto fu preso da Chris Arvin, ma presto si scioglieranno. Bisogna attendere il 1998, quando i Mr. Big si sciolgono e Paul Gilbert riforma i Racer X per pubblicare nel 99 il terzo album dal titolo Technical Difficulties con la classica line-up. Seguono altri due lavori in studio. L'ultimo, Getting Heavier, è uscito nel 2002. Oggi, dal loro secondo album, Second Hit, andiamo ad ascoltare le note di Motor Man. Massimo come incisione, nonostante venne pubblicato su etichetta Road Racer, che poi sfociò in Road Runner, eccetera, eccetera, eccetera. Questo era il secondo album dei Racer X americani, con Paul Gilbert alla chitarra. Era Motor Man dall'album Second Hit. Ritorniamo alle cose più recenti, andiamo a novembre, quando su Lion Music viene pubblicato questo album distribuito in Italia dalla Frontiers, album d'esordio dal titolo The End of Never, per il nuovo progetto del chitarrista e leader degli Attention, cioè Roger Stauffelbach, e si chiamano Angel of Eden. La band è completata dal cantante Carson Schulz, ex Domain, del batterista Remy Ali degli Evidence One e del tastierista italiano Mysteria, e al basso come ospite abbiamo il bravo Steve Di Giorgio. In tema di ospiti c'è anche il cantante John West in una canzone, Devil's Knuckle, ex Manowar e Ferdy Dunberg della band di ex Rudy Pell. L'album si compone di 10 brani prodotto dallo stesso Roger Stauffelbach. Andiamo ad ascoltare la traccia numero 2 da quest'album, intitolato The End of Never. Loro sono gli Angel of Eden, il pezzo è Dream Chaser. Siamo nel novembre del 2007 con la pubblicazione dell'album d'esordio di questi Angel of Eden del progetto del chitarrista e leader degli Attention, che abbandoniamo per ritornare al passato, magari una band non molto nota o conosciuta, però ci sono dei grossi personaggi all'interno di essa. Loro sono tedeschi, propongono un hard rock abbastanza classico, si chiamano Rampage. E si parla della militanza in questa band del chitarrista Roland Grapov, che poi è andato nei Master Plan ed Ex Halloween, che all'inizio si occupava anche del ruolo di cantante, pensate un po'. In questo album Love Lights Up the Night, uscito nel 92, ha suonato anche in alcune parti la chitarra Ennio Ritter, che dopo 5 anni è entrato a far parte dei Gamma Ray. La band si chiamava appunto Rampage, alle spalle due album, quello d'esordio dal titolo Victims of Rock del 91 e questo secondolo dal titolo Love Lights Up the Night dell'82. In seguito nel 1989 appunto Grapov entrerà negli Halloween, dove suonerà per 12 anni fino a quando li lascerà per dedicarsi completamente alla sua altra band, cioè i Masterplan. Da quest'album, il loro secondo, andiamo ad ascoltare le note di Everybody. We'll be right back. time. I took your hand and I held you tight. Do you recall the way we felt inside? Exchanging words, making promises to never let it die. Feels like you're slipping. If I should go or stay. Please don't cry, dry your eyes. Oh, we gotta fight for it, baby. Love only dies if you let it hold me tight. No i tedeschi Rampage. Abbiamo trovato un ballatone molto più recente, il progetto AOR, creato dal chitarrista Chip, con questo nome insieme al bravo cantante Jack Marquez. E è uscito questo Action, il nome scelto per questo progetto, stampato dalla Frontiers Record, pubblicato nel mese di dicembre. È l'omonimo debutto. Ci sono 11 canzoni in totale, ottimo AOR come potete sentire, e brano intitolato Forever. Andiamo a chiudere questa prima parte con una band forse la più nota insieme ai Metallica in Italia, cioè gli Iron Maiden, che arriveranno da headliner il 27 di giugno al Gods of Metal, che si terrà a Bologna. L'album che abbiamo scelto per questa sera è il secondo, uscito nel 91, con Paul Di'Anno alla voce, Dave Murray, Adrian Smith alle chitarre, Steve Harris al basso, Cliff Bar alla batteria. Di quella formazione ad oggi sono rimasti Murray, Smith ed Harris. Cliff Bar se ne andrà dopo il terzo album, entrerà nei Trust al posto di Nico McBrien, e quest'ultimo lo sostituirà nei Maiden stessi e suonerà anche nei Prime Mantis. Paul Di'Anno fu invece licenziato dalla band dopo quest'album e intraprenderà una carriera solista a nome di Enno Killers Battle Zone, ed anche lui militerà per un anno nei Praying Mantis. La curiosità è che di Enno rincontrerà il chitarrista Dennis Stratton, che aveva suonato nel primo album dei Maiden, ed insieme formeranno una band a loro nome, pubblicando tre album dal titolo The Original Iron Maiden, The Original Iron Man, poi The Original Iron Man 2 e Hard as Iron. In tema di Iron Maiden, ricordo che questo venerdì al Live Club di Trezzo sull'Adda, questo venerdì 15, ci saranno The Clairvoyants, che è la cover band italiana degli Iron Maiden, insieme a altre due cover band degli Halloween e dei Dream Theater. Il brano scelto dall'album Killers si intitola Purgatory. Isn't the entrati nella seconda parte del nostro appuntamento di quest'oggi di Hard and Heavy, con una band che abbiamo presentato con altre tracce nelle scorse settimane, l'album d'esordio per questa heavy metal band svedese creata dal chitarrista Martin Bengtsson, ex Arch Enemy ed ex Armageddon, si chiamano Lackery. Nel 2004 Martin creò il gruppo nel quale suona la chitarra e canta. Il resto della formazione completato dal chitarrista e dal bassista, entrambi ex Moonlight, e dal batterista dei Dragon Throne. Dopo due demo ottengono un contratto con la Metal Heaven, che ne pubblica questo Violator, che presenta 11 brani. Oggi abbiamo ascoltato le note della traccia numero 7, Slave Under Passion. Continuiamo con un gruppo che, se non sbaglio, è all'esordio. Sì, mi viene confermato, album d'esordio per questa band americana. Si chiamano Main Line Riders. L'album si titola Shot in the Dark, è uscito da un paio di settimane. Loro arrivano dal Texas, sono in quattro. Il leader del gruppo è il chitarrista Cliff, che dopo aver creato e militato negli Hunting Stones è entrato nei Stives per 5 anni. Nel 2006 la band si scioglie e così crea questi Main Line Riders. Scrive nuove canzoni e si autoproduce questo lavoro, Shot in the Dark. Lo spedisce a varie etichette e alla fine ottengono un contratto con la Retroactive Records. L'album presenta 9 tracce influenzate dal glam e l'air metal degli anni 80. Andiamo ad ascoltare la traccia numero 2 dell'album, One Way Ticket to Love, per questa nuova band americana, Main Line Riders. Appuntamento con le Metal News, partiamo con i Titanic. A 6 anni di distanza dal precedente lavoro, sono pronti a tornare sul mercato europeo per il 29 di febbraio con il terzo album dal titolo Full Steam Ahead. L'album inoltre avrà 2 bonus track con la presenza del batterista degli Stripe, Robert Sweet. I Decide uscirà in aprile tramite Rack Records il nuovo Till Death Do Us Part per la death metal band americana. L'album è stato registrato presso i prestigiosi Morrison Sound Studios di Tampa Bay in Florida. Dark Throne, la black metal band norvegese, sta lavorando al nuovo album, il cui titolo sarà Dark Thrones and Black Flags. Ha già pronte 4 canzoni e la registrazione terminerà a luglio. Ancora black metal dalla Norvegia, cioè i Mayhem, che hanno vinto un Grammy Award norvegese nella categoria metal con l'album Ordo Ad Ciao, battendo Dimmu Borgir, Audrey Horn e Red Harvest. I King's Call uscirà il 29 febbraio in Europa, l'album d'esordio per questo progetto hard rock creato dal chitarrista cantante Alex, che ha già collaborato con Chuck Wright e Graham Bonnet. Andiamo invece a parlare della formazione tedesca degli Storm Warrior. Hanno reso noto la data di pubblicazione del nuovo album per questo gruppo power metal tedesco. La data è il 3 di marzo, l'etichetta è la Dockyard One, il titolo sarà Heading North. Ci saranno 10 brani più un intro, il tutto mixato dall'esperto Pete Seal, che è masterizzato dall'altrettanto esperto Tommy Jensen presso i suoi Gelau Studios in Danimarca. Riguardo la formazione, ricordiamo che al basso c'è Jens Lonhard degli Iron Savior. Noi quest'album lo abbiamo già, quindi in anteprima assoluta andiamo a proporre le note di Metal Legacy per la formazione degli Storm Warrior. pubblicato nel mese di marzo questo nuovo album dei tedeschi Storm Warrior dal titolo Hidden North. Oggi vi ho proposto le note del motivo dal titolo Metal Legacy. E andiamo ad un'altra novità, questa volta in parte o quasi tutta italiana. Si parla dei Chimera. Uscirà la prossima settimana il terzo album di questo project, creato dal tastierista e compositore Daniele Liverani, un artista italiano molto noto all'estero, che ha alle spalle anche tre rock opere uscite a nome di Genius, oltre ad aver pubblicato diversi album solisti e a militare negli Empty Tremors. Per il resto della line-up è confermata quella del precedente lavoro, cioè Dario Ciccioni alla batteria, Tommy Armolli alle chitarre, soprattutto Dennis Ward dei Pink Cream 69 al basso e alla voce. Per la composizione dei brani hanno partecipato anche i due fratelli Martin degli House of Lords. Ricordo che l'esordio di Chimera esce nel 2003 con l'omonimo album nel quale cantava Steve Walsh, mentre per il secondo A New Promise del 2005 abbiamo questa lineup. Il 22 febbraio tramite Frontiers Record verrà pubblicato questo The Greatest Wonder, dal quale oggi andiamo a proporre le note del motivo Borderline. La Borderline, ottimo prodotto AOR, in uscita la prossima settimana con il progetto Chimera, con la mente, che è l'italiano Daniele Liverani, tastierista. The Greatest Wonder sarà il titolo di quest'album, questa era Borderline. E noi chiudiamo l'appuntamento di questa sera di Arden Devi parlando del gruppo degli Obituary, che recentemente hanno suonato proprio qua in Italia. La storica band di death metal americana ha pubblicato questo nuovo album dal titolo Executioner's Return. È uscito un po' di tempo fa, a dire la verità, a settembre dello scorso anno. Questo titolo riprende praticamente il loro primo nome. In effetti gli Obituary nascono in Florida nella seconda metà degli anni Ottanta con il nome di Executioner, ma a causa di una omonimia sono costretti a cambiarlo nell'attuale Obituary. L'esordio discografico arriva poi con l'album Slowly We Rot dell'89. Nel 1998, dopo 5 album, esce un live dal titolo Dead, che di fatto ne sanciva lo scioglimento fino a luglio del 2005, quando sono tornati con un nuovo album dal titolo Frozen in Time. A 2 anni di distanza, con un nuovo contratto, sono usciti con questo Executioner's Return, che comprende 11 tracce. Novità in lineup con l'ingresso del nuovo chitarrista Ralph Santolla, che ricordiamo per aver suonato con i Millennium, i Beside e gli Ice Earth. È andato a sostituire lo storico Alan West. Noi andremo ad ascoltare Face Your God, il brano che apre quest'album e che però, come dicevo, chiude il nostro appuntamento di quest'oggi. Quindi Marco Gravelli vi ringrazia per avermi seguito. Ricordo che se perdete qualche puntata di Arden Devi la potete riascoltare tramite il nostro sito www.radiorockfm.com. Cliccate su archivio programmi e scegliete Arden Devi e la data della puntata che vi siete persi. Un grazie come sempre al nostro sponsor Mariposa Dischi, Corso Lodi al numero 1 qua a Milano, nonché al nostro autore Simone. Vi ringrazio, vi auguro buon proseguimento con i nostri programmi. Ci ritroveremo domani sera dalle 20 alle 21, sempre su Rock FM, per un altro spazio di Arden Devi. Ciao ciao!